X24, i gialli della storia. Una notte nella mia casa sono arrivati un gruppo numeroso di persone mascherate con armi, pistole, no? E ci hanno portato via con mia moglie. Mi legarono a una branda di ferro, mi levarono parte dei vestiti e cominciarono la sessione con la picana elettrica, uno strumento di tortura per trasmettere l'elettricità in tutto il corpo. L'80% delle persone con cui condividevo sia la militanza che anche l'amicizia, tutto, io le ho perse. E ti poteva anche toccare a te perché era proprio la gente giovane che cercavano. Questo non è stato mai una guerra, è stato lo sterminio di una generazione in Argentina. E lo sterminio di una generazione. Sono passati 40 anni da quando in Argentina è cominciato l'orrore della dittatura militare. Oggi a MX24 racconteremo quei tragici momenti attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, ma non solo. Tra i protagonisti di questa tragica storia fatta di torture, di violenze, di dolore, c'è un uomo, un italiano, che ha salvato più di 500 persone da una morte certa. È un giovane diplomatico ed è un eroe. Il suo nome è Enrico Calamai. Michelangelo aveva 20 anni quando l'hanno sequestrato. Non ho saputo mai niente di lui, però niente. Angela Boitano, madre di due ragazzi desaparecidos. Michelangelo, studente universitario, scomparso a 19 anni. Adriana, liceale, scomparsa a 18 anni. Allora che abbiamo fatto? Abbiamo raccolto tutto e siamo scappati. Hernán Varela, grafico. Maria Mosca, psicanalista. All'epoca erano militanti sindacali. Io credo che a me mi hanno dato la vita due volte. La prima volta era mia mamma, la seconda volta Massimo Bernardinelli e Calamai. Io vivo grazie a loro. Wanda Fragale, avvocato, all'epoca moglie di un militante del gruppo guerrigliero ERP. L'alternativa che avevano di fronte a sé questi ragazzi era la fuga o la morte. Un vicolo cieco anche per Calamai, che è disposto a tutto pur di salvarli. E lui non è nuovo a situazioni pericolose, dove è necessario molto coraggio e una notevole capacità diplomatica. La sua carriera in Sud America è cominciata qualche tempo prima e ha avuto risvolti altrettanto drammatici. È l'11 settembre del 74. Santiago del Cile. Aerei militari bombardano il palazzo presidenziale. Il governo democraticamente eletto del socialista Salvador Allende viene abbattuto da una congiura militare. È il colpo di Stato. L'Italia ritira la rappresentanza diplomatica e richiama l'ambasciatore. La situazione è grave. In molte delle sedi diplomatiche, numerosi rifugiati sono alla ricerca di un salvacondotto. In quella italiana, 412 rifugiati, tra cui 50 bambini, chiedono asilo politico. Enrico Calamai, viceconsole a soli 27 anni, viene spostato da Buenos Aires a Santiago. È la fine di ottobre del 1974. Ero stato inviato lì a aiutare a portare avanti il normale funzionamento burocratico dell'ambasciata. Il governo italiano non aveva riconosciuto il governo di Pinochet, quindi i rapporti diplomatici erano ridotti al minimo. E Roma ha preferito mandare in missione un giovane funzionario da un paese vicino piuttosto che accreditarne un altro. Si arrivò a una soluzione di compromesso che consisteva nel far partire tutti i rifugiati presenti in ambasciata, e però il governo italiano avrebbe innalzato il muro di cinta, avrebbe messo del filo spinato e soprattutto i militari cileni avrebbero circondato l'ambasciata in modo da non permettere più l'ingresso di persone che cercavano asilo politico. In Cile Calamai ha affrontato mille pericoli e tutte le difficoltà che tenevano i rifugiati lontani dalla libertà, e attraverso la sua mediazione è riuscito a salvare 412 persone. Con questo bagaglio umano e professionale va in Argentina, dove lo aspetta una prova dura e drammatica. Il Dopo 40 anni di governi militari e di regimi dittatoriali, nel 1973, anche in Argentina viene finalmente annunciata una svolta democratica, qualcosa che i giovani argentini non avevano mai conosciuto. Il vincitore, il dentista Héctor Campora, votato dalla stragrande maggioranza degli argentini, è il portavoce di un uomo in esilio da 18 anni, amato da destra e da sinistra, Juan Perón. Dopo il trionfale ritorno in patria e la sua immediata rielezione a presidente con le dimissioni di Campora, Perón ha già diviso il paese. I giovani che speravano in un cambiamento radicale ora sono delusi. Il giorno stesso dell'arrivo di Perón all'aeroporto scoppia un conflitto violentissimo che si conclude con un massacro. Nei mesi successivi le scelte si radicalizzano. In questa situazione di preguerra civile, il generale Perón muore improvvisamente, lasciando la presidenza alla moglie Isabelita. Morto Perón, c'era un crescendo della repressione e è lì che inizio a avere contatti con quello che era stata l'organizzazione Montoneros. E già evidentemente i militari, si può dire così, governavano attraverso Isabel. L'Argentina sta sprofondando verso una deriva cilena e il golpe arriverà di notte, senza che ci siano immagini cruente che possono fare il giro del mondo come era capitato in Cile. E il 24 marzo del 76 ascoltiamo la testimonianza di Enrico Calamai. Il Parlamento è sciolto, l'attività dei partiti sospesa. Il nuovo governo è guidato dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Jorge Videla. La giunta militare giustifica la sua azione con la necessità di restaurare i valori essenziali, indispensabili per condurre gli affari dello Stato. Quando il 24 marzo del 76 i militari presero il potere, apparentemente non successe nulla. Io mi ricordo, il centro di Buenos Aires era esattamente uguale al giorno prima. Non si vedeva un carro armato, non si vedeva in centro almeno un posto di blocco, il traffico era normale, i negozi erano aperti, non c'erano segni di violenza. Ci volle qualche giorno per me per rendermi conto di quello che succedeva, e cioè che un golpe non poteva venir portato a termine senza atrocità repressive. Soltanto che la strategia scelta dai militari era stata molto abile. Non rifecero l'errore di Pinochet, che aveva puntato sull'esibizione dell'uso della forza repressiva e che si era ritorto contro di lui per via della reazione di condanna che aveva suscitato in tutto il mondo. L'apparente clima di calma si è trasformato in terrore. Cominciano le prime sparizioni sospette di giovani impegnati in politica. Uomini armati entrano nelle case e rapiscono ragazzi e ragazze. Un genocidio annunciato dal generale Videla in persona, che aveva dichiarato: morirà il numero di persone necessario per conseguire la sicurezza del paese. Fin dai primi giorni Gian Giacomo Foà, che era il rappresentante del Corriere della Sera in Argentina, mi disse che i posti di blocco, per esempio, c'erano, e come, e c'erano nelle periferie, nelle borgate, e aveva avuto notizie di ragazzi portati via la notte. Mi fece capire che l'attività repressiva era iniziata immediatamente, ma io lo venni a sapere con maggior chiarezza in consolato, perché da partire da una settimana dopo il golpe cominciarono ad arrivare i familiari di ragazzi portati via. Ma tutti raccontavano la stessa cosa. Una mattina andò a lavorare e non tornò più a casa. Michelangelo aveva 20 anni quando l'hanno sequestrato. La moglie è stata arrestata lo stesso giorno che è scomparso lui. Cominciai a cercarlo dappertutto. È da 2 anni e un mese che mancano e non sappiamo né la sorte di mio figlio, né di mia nuora e né del nipotino che è nato in carcere. purtroppo quando c'era qualcuno portato via non avevamo altri strumenti che fare una denuncia, presentare il cosiddetto ricorso di habeas corpus, cioè chiedere al giudice dove stava la persona arrestata. In effetti i primi tempi chiunque contattavamo per occuparsi di questo si tirava indietro. Finalmente sono riuscito a trovare un avvocato disposto a collaborare con il consolato, era l'avvocato Librandi. Per iniziare una causa, ogni volta che dovevo presentare un habeas corpus o un'istanza di difesa, avevo bisogno di un incarico ufficiale del console generale che mi affidasse questa o quella causa. Ma questo gli è stato negato. Ciò nonostante lui è stato disponibile e ha fatto molti, molti ricorsi di habeas corpus. Sono passati dei mesi prima che arrivassero le prime risposte, sono state tutte negative. Intanto chi si ribella viene isolato, vede i parenti e gli amici scomparire all'improvviso. È una realtà vissuta da un'intera generazione declinata in 365 prigioni segrete dove vengono rinchiusi, torturati e uccisi i dissidenti. La speranza è solo la fuga. E qui entra in gioco la figura di Enrico Calamai. Tanti argentini di origine italiana cercano rifugio in ambasciata o al consolato. Vorrebbero fuggire ma non hanno nulla, non hanno mezzi e soprattutto non hanno il passaporto. La linea diplomatica del governo italiano è non ripetere l'esperienza cilena. La volontà di Calamai è esattamente opposta. Bisogna fare tesoro di quell'esperienza. La situazione del consolato era completamente diversa. Un consolato non può concedere l'asilo politico per il semplice fatto che, non essendo extraterritoriale, la polizia può fare irruzione. In realtà gli strumenti per aiutare ce l'avevamo, innanzitutto il passaporto. Grazie a questo console che ci ha dato il passaporto, a me subito, anche il biglietto. Siamo scappati a Capodanno a Rio de Janeiro in autobus. E già in Brasile, a Rio de Janeiro, io mi sentii libera, però non volevo restare in Sud America, mi sembrava che anche lì poteva succedere qualcos'altro. Io volevo, forse per mio padre, però volevo l'Italia. Il flusso delle persone che chiedono di partire per l'Italia cresce di giorno in giorno. Il console generale non vuole più rischiare e pretende che l'accoglienza venga bloccata. Ma Calamai non accetta di lasciare al proprio destino tutti quegli uomini disperati. Ma da questo momento in poi ogni aiuto sarà dato a rischio della sua stessa vita. C'era il tentativo di lavarsi le mani, di respingere chi chiedeva aiuto. Devo dire, mi sono trovato abbastanza isolato nel tentativo di dare vita a un'organizzazione che garantisse al massimo la sicurezza di chi arrivava in consolato. Allora ho avuto aiuto da un sindacalista, rappresentante della CGIL in Argentina, che era Filippo Di Benedetto. Di Enrico Calamai ce n'è stato uno. Sentiva il dolore e anche la rabbia di non poter fare di più. La prima cosa di cui ho sentito bisogno è rompere il muro di gomma del silenzio stampa. Il problema era che i telefoni erano controllati. Allora Filippo pensava lui a far arrivare l'informazione in Italia attraverso suoi amici che lavoravano alle poste, mandando i telegrammi in modo più o meno cifrato. Ricordo che studiavamo come avere sempre un modo nuovo di essere utile alla gente e non come altri, quando gli andava a parlare di questo era come se gli portavi i problemi, gli creavi rogna. Sono andato al Consolato Generale d'Italia e già cercando di Calamai. Sapevo che lui era uno che ti riceveva, ti ascoltava e cercava di aiutare le persone. Quando sono andato lì c'era anche il console generale e lui mi ha cominciato a dire che potevo tornare e chiedere documentazione però rimanere fuori. E dove mi sono imputato, ho cominciato a gridare: io rimango qua, sono un cittadino italiano e non mi muovo di qua. No, se volete cacciatemi con la forza. Enrico mi dava dei calci nei piedi, mi diceva, mi insinuava che quello che stavo facendo era bene, e lì io me ne sono andato con Calamai fuori dallo spazio del console. Allora lui ha fatto di tutto per tenermi dentro e farmi accomodare. Mi sono ricordato che c'era una stanza libera, un ufficio non utilizzato nell'edificio del consolato, e chi veramente non sapeva dove andare lo mettevamo lì dentro. Era una soluzione scomoda, però almeno relativamente sicura. Era una stanza spoglia assolutamente, aveva due sedie e basta. Io le avevo detto, guarda, io sono capace di comporre con dei timbri e tutto un documento, basta che mi diano un documento vuoto. Enrico mi ha procurato tutti i timbri che le avevo chiesto. Io ho composto tutto, ho fatto tutto il documento, e lì le hanno consentito di fare il passaporto al nome di quel documento falso. C'era poi da eludere il controllo all'aeroporto, e anche lì siamo riusciti a capire che c'erano dei modi. Lui mi avrebbe accompagnato con una macchina del consolato fino all'aeroporto e avrebbe viaggiato con me. Intanto la macchina della morte è a pieno regime. Anche al consolato i rischi sono tanti. La normalità della vita quotidiana è sequestrata dalla violenza. A un certo punto è venuta in consolato una ragazza, figlia di italiani, perché era stata sequestrata mentre tornava a casa da una macchina senza targa. Era stata fatta girare per ore e ore per Buenos Aires e poi scaricata in un luogo sotterraneo che chiaramente era un centro di detenzione clandestino. Era stata portata in una stanza, messa su una branda di ferro, le era stata applicata la corrente elettrica e violentata più volte. Finito tutto questo, le era stata tolta la benda e aveva visto in un'altra brandina accanto alla sua il fidanzato, che a sua volta era stato torturato davanti a lei. Grazie a questo ti sei salvata. Dopodiché lei era stata ricaricata in macchina e rilasciata di notte in un qualche sobborgo di Buenos Aires. È venuta in consolato per denunciare quello che era successo, anche se le avevano detto assolutamente di non sporgere denuncia perché l'avrebbero uccisa, ma non sopportava l'idea che un fatto simile restasse impunito. Ha chiesto l'intervento del governo italiano, invece non è successo niente. L'orrore è superiore a quello che si possa immaginare. Nel cortile delle scuole dell'Armada, Wanda Fragale vede centinaia di corpi ammassati che non sono ancora dei cadaveri, ma dei prigionieri straziati, seviziati, storditi, che aspettano di essere caricati sugli aerei militari e buttati ancora vivi in mare. Quando Wanda è stata sequestrata, aveva in tasca il nominativo di un funzionario dell'ambasciata d'Italia, cioè di Massimo Bernardinelli. Il fatto che due funzionari diplomatici si fossero mossi ha fatto sì che lei venisse, se non rilasciata, messa in carcere. Uscire dalla scuola dell'Armada si usciva solo se si collaborava con i militari, se no non si usciva vivi. Quando dopo qualche giorno ci vengono a prendere per trasferirci a un commissariato, e siccome è rivivere. Era un sostanziale passo avanti verso la sopravvivenza, perché da quel momento in poi c'era una precisa responsabilità del governo argentino per garantire l'incolumità della persona. Niente, sono rimasta 3 anni e mezzo in galera, senza accusa, senza processo. Calamai veniva spesso, ci parlavamo, mi domandava cosa volevo, io volevo uova fritte. L'unica cosa, avevo un desiderio di mangiare uova fritte. Niente. Il 22 agosto del 79, mi hanno espulso dall'Argentina. Espulsa ma viva, Wanda è una delle poche sopravvissute. 30.000 sono i desaparecidos, quasi tutti giovani e tra questi almeno 500 italiani. Ma il mondo fa finta di niente e questo vale sia per gli Stati Uniti che per l'Unione Sovietica. Interessi, complicità, connivenze coinvolgono tutti, anche l'Italia. I nostri rappresentanti in Argentina sono in molti casi uomini della P2 di Licio Gelli e c'è chi gioca a tennis con il generale Videla. Ecco perché Calamai è una presenza ingombrante. Di fatto la mia presenza in Argentina non venne prolungata, il che vuol dire che non si apprezzava particolarmente quello che facevo. Sono stato richiamato a Roma, quel poco che io avevo avuto la possibilità di fare era finito, era chiuso, chiuso per sempre. Molti anni dopo mi hanno chiamato in tribunale come testimone quando c'è stato un importante processo a Roma contro i militari argentini e tutti ricordavano quello che a quel punto a me sembravano mie fantasie o mie pazzie personali, invece era tutto reale. Davanti a me il grande console italiano in Argentina. Non da tanto tempo siamo molto più consapevole che noi siamo dei sopravvissuti e dei testimoni. Quindi abbiamo questo dovere, questo impegno che non è facile emotivamente, però che bisogna fare memoria e ritornare a quel periodo lì. Io ho vissuto più o meno quello che hanno vissuto tutti. Quello che ho avuto, dico, è fortuna che non me l'hanno preso, però diciamo, posso dire che l'80% delle persone che, con cui io condividevo sia la militanza che anche l'amicizia, tutto, io le ho perse, sono state ammazzate, sono scomparse, e vedevo come i birilli, no? Cadevano in continuazione. Qualche volta mia moglie mi diceva, stai piangendo. Sì, sì, piangevo. Perché non riesco a togliermi dalla testa l'immagine di tutta quella gente che veniva a chiedere aiuto. Tanti. A volte mi succede che mi chiedano il numero di coloro che ho aiutato. Per timore di esagerare, finisco col rispondere con delle cifre che comprimo sempre di più. La verità è che non posso ricordare, perché di quell'unica epoca in cui, pur con enormi difficoltà, mi è stato dato di vivere pienamente, rimane appena qualcosa di simile a uno scafo affondato. E una grande amarezza per coloro che ho lasciato, per quanto lo Stato italiano avrebbe dovuto fare, se non altro per i propri connazionali, anziché attaccarsi al dividendo di quello che ormai viene concordemente definito un genocidio. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.